Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Da un lato abbiamo il tema già sollevato questa mattina dal Sole 24 Ore, non è mai presto per parlare di coperture, diciamo così, nel senso che superato poi il passaggio parlamentare, Matteo Renzi dovrà indicare, rispetto agli obiettivi che ieri vi abbiamo fatto ascoltare, taglio del cuneo fiscale a doppia cifra, si è capito che si intendeva non in percentuale ma come miliardi, quindi sui 10 miliardi di euro, e riforma della pubblica amministrazione, ma soprattutto insomma le coperture. Le coperture perché smaltire i debiti della pubblica amministrazione verso le imprese vuol dire recuperare tra gli 80, forse i 100 miliardi. In realtà il governo Letta aveva già predisposto il pagamento di 47 miliardi nel biennio 2013-2014, diciamo che ne mancano 40-50 miliardi, l'assegno universale sono 18 miliardi, il piano di edilizia scolastica sono 7 miliardi e il cuneo, appunto, se vogliamo intendere la doppia cifra come 10 miliardi, non come 10%, sono altri 10 miliardi. Se invece si intendesse il 10%, servirebbero 30 miliardi. E qui bisogna iniziare a realisticamente con la linea che già esponevo ieri, e quindi né contro, né scettici, né entusiasti, realistici, e quindi guardare volta per volta, nello stile anche di questo gruppo, quelle che sono le dichiarazioni da un lato, i provvedimenti attuativi dall'altro, perché non basta fare gli annunci, e soprattutto le coperture finanziarie. Di questo parleremo in apertura, ma anche nella seconda ora, perché nel frattempo sono arrivate le attese stime dell'Unione Europea sulla crescita economica nel 2014. Allora, diciamo subito, non ha molto senso far polemica col governo che se n'è appena andato, però, visto che parliamo di un paio di settimane fa, ricorderete la polemica tra l'ex presidente Consiglio Letta, il ministro Saccomanni e la Confindustria su una ripresa. Saccomanni ve l'abbiamo fatto anche ascoltare, che diceva nel 2013 la ripresa è cominciata a metà del 2013. Noi ci siamo permessi di obiettare, ma quale ripresa? Ora io mi chiedo, ed è una domanda forse retorica, perché il governo uscente abbia mantenuto una previsione di crescita dell'economia italiana all'1% fino alla fine, nonostante i dati che a noi arrivavano dal Centro di Confindustria, dall'Istat sulla produzione industriale e quant'altro, segnalavano un 2013 che era finito in rallentamento, quindi non c'era stato un ingresso nel 2014 in velocità, per cui che difficilmente si sarebbe potuti arrivare all'1%, tutti gli istituti dicevano 0,6, 0,7, non è una differenza da poco, balla al 30-40% tra una stima e l'altra, e anche perché che il PIL cresca dell'1% o dello 0,6 cambia molto sul rapporto deficit-PIL, lo abbiamo spiegato molte volte, è un rapporto, quindi se il denominatore si riduce, il PIL, è chiaro che questo rapporto va a aumentare e il deficit l'Europa vuole che venga tenuto perlomeno formalmente sotto al 3% massimo. Lo dico perché oggi l'Unione Europea ha diffuso le stime sulla crescita economica, più 1,2% in media nell'area euro e più 1,8% l'anno prossimo. La crescita sarà più forte nell'area fuori dal A25, quindi più 1,5 e più 2 l'anno prossimo. La Germania farà più 1,8 quest'anno, la Francia più 1%. L'Italia è l'unico paese che vede le stime al ribasso, cioè non faremo lo 0,7 ma lo 0,6. Peggio mi sento, e ripeto, sarebbe interessante sapere perché l'ex governo, il governo uscente, ha mantenuto questa stima dell'1%. Una crescita dell'1% del PIL indicativamente sono circa 17-18 miliardi di euro, una crescita dello 0,6 indicativamente sono circa 10 miliardi di euro, c'è una bella differenza, sono 7-8 miliardi di meno. Ecco, perché la si tentava comunque? Fatto sta che avevano ragione tutti gli altri istituti, Fondo Monetario, OCSE, Commissione Europea, visto che le stime sono dello 0,6%. L'Italia avrà comunque un deficit del 2,6% quest'anno, grazie al calo dello spread che porta un risparmio quantificabile più o meno in 7-8 miliardi di euro l'anno. Paghiamo meno interessi sul nostro debito, lo spread appunto è stabilmente sotto i 200 punti, però peggiorerà quest'anno la disoccupazione, anche questo abbiamo avuto modo di annunciarlo, andremo al 12,6% come disoccupazione quest'anno e calerà leggermente al 12,4% l'anno prossimo, ma era previsto un calo un po' più forte al 12%. Non più tardi di novembre dell'anno scorso. La media dell'area euro come disoccupazione sarà del 12% quest'anno e dell'11,7% l'anno prossimo. Ancora sottolinea l'Europa che il credito alle imprese resta anemico senza un'unione bancaria a cui si oppone la Germania e anche altri paesi, ma soprattutto la Germania. Per quello che riguarda l'inflazione, un'inflazione praticamente da stagnazione economica, 1% rispetto all'1,4% nel 2013, io voglio far notare che se depuriamo questa stima dai prezzi dell'energia, vuol dire che buona parte dei prodotti venduti in Europa sono in deflazione, perché o comunque sono a prezzi praticamente fermi. Lo dico anche perché oggi la Confcommercio, anzi la Confesercenti se non ricordo male, ha diffuso dati, ha commentato i dati diffusi dall'Istat sui consumi in Italia. Beh, insomma, se qualcuno avesse ancora dei dubbi venga a leggerseli, il crollo delle vendite nel 2013 è stato del 2% rispetto a un anno prima. Ora, venivamo già da cali continui dei consumi dal 2008, dal 2009 in poi, ma un meno 2% nei consumi, considerato che in un'economia già in stagnazione, in recessione, scusatemi, i consumi vengono ridotti, non dico all'osso, ma quasi, calare di un altro 2% è un dato che non si è mai visto, può sembrare poco, ma in realtà il 2% di calo su consumi già ridotti è tantissimo. Pensate che un calo del genere non si era mai verificato dal 1990, da quando esistono le serie storiche. Ok, l'unico che va bene è il settore dei discount, vedi un po' il motivo, più 1,6%. È l'anno peggiore da sempre, perché prima non sappiamo come andassero le cose, ma da quando fotografiamo i consumi, quindi sono 24 anni che i consumi non calavano così tanto, ripeto, e non venivamo da un'esplosione dei consumi, della domanda interna e dei generi non alimentari e quant'altro. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook, parleremo anche di Crizia che va ai giapponesi e faremo anche un bilancio di questa settimana della moda milanese nel giorno in cui le agenzie battono una notizia a mio avviso molto più importante di tanti commenti sulla politica e quant'altro. Il 50%, il 47% dei beni di lusso venduti l'anno scorso in tutto il mondo è stato acquistato da un cinese. Nella maggior parte dei casi, nel 60% dei casi, gli acquisti sono venuti fuori dalla Cina, dove ci sono anche alte tasse. Sui beni di importazione, a New York, a Londra, a Roma. Questo dovrebbe dirla lunga anche sull'importanza di avere i turisti cinesi che non arrivano a Parigi, poi vengono a Roma, a Venezia, ma atterrano direttamente a Roma o a Venezia, un discorso che abbiamo fatto più volte. Comunque vuol dire che l'anno scorso un bene di lusso su due è stato comprato dai cinesi. Poi possiamo ragionare sull'importanza dell'Europa, dell'euro, dell'Italia, ma attenzione, nel frattempo il mondo è definitivamente cambiato. Le altre notizie in breve. Allora, tutte belle notizie in apertura, mi scrive un ascoltatore, mancano solo le campane a morto, un po' di ottimismo, no? Ma guardi, l'ottimismo della volontà, per dirla con Gramsci, c'è sempre, ma poi abbiamo il pessimismo della ragione, ma cosa volete, che vi raccontiamo la favola dell'orso? Mi sembra che abbiamo già avuto parecchi premier che hanno raccontato favole in questi anni, non vorremmo metterci anche noi. Noi vi leggiamo i dati, vi diciamo dove vediamo qualche elemento positivo, per esempio l'export, il dato che ho appena letto sui i beni di lusso, visto che il lusso è uno dei pochi settori a tenere anche come Made in Italy, la dice lunga sul fatto che chi si sposta su certi mercati riesce a guadagnare. Dell'export italiano abbiamo parlato bene più volte. Insomma, se poi le stime sono riviste a ribasso, se poi, voglio dire, il governo precedente si era fissato, come abbiamo già visto fare nel passato da altri governi che non volevano mai ammettere che la crescita era più bassa di quanto stimato, io che ci posso fare? L'Ucraina, allora, le banche russe, lo segnala oggi anche un'altra agenzia di rating, Fitch, sono minacciate dalla crisi ucraina, perché i 60 miliardi di dollari di esposizione ucraina sono quasi tutti in mano alle banche russe. Fitch pone l'attenzione su prestiti diretti da 28 miliardi di dollari di Ucraina. Ha parlato anche oggi l'amministratore delegato dell'ENI Paolo Scaroni sul tema dell'approvvigionamento di gas. Ricorderete la crisi che si era già verificata per il blocco del passaggio del gas russo via Ucraina, però Scaroni ha escluso, diciamo, problemi in termini di approvvigionamento. Sentiamolo al microfono della nostra Alessandra Schepisi. Ci sembra di poter dire che non ci dovrebbe essere una crisi del gas nei prossimi mesi, nemmeno di fronte allo scenario peggiore possibile. Io faccio lo scenario dicendo: immaginiamo che non transiti più nemmeno un metro cubo di gas, no? Questo è lo scenario che ci immaginiamo, non ce lo immaginiamo, ma insomma che lo prendiamo come ipotesi di base, e ci sembra di poter dire che non ci sarebbero problemi per l'approvvigionamento del gas fino all'estate. Vedo che Renzi, nel frattempo che sta parlando alla Camera dei Deputati, ha detto: attenzione, la disoccupazione al 12,6% non è solo un numero, e su questo siamo d'accordo. E poi ha usato un'immagine in cui, devo dire, molto bravo: la stabilità delle scuole è più importante della stabilità dei conti. Beh, siamo d'accordo, se per stabilità delle scuole si intende appunto il rischio che alcune scuole non stiano nemmeno in piedi, siamo d'accordo. E dietro questa frase c'è tutto un approccio ragionieristico dell'Europa, trazione tedesca. Non me ne frega nulla se l'ho detto mille volte, continuerò a dirlo, perché questa situazione è anche il frutto di quelle scelte operate nel 2010-2011 che vanno a vantaggio solo ed esclusivamente della Germania. E secondo me è un approccio in cui è più importante risanare una scuola che avere il deficit al 3 invece che al 3,01, è un approccio corretto. Basta con i ragionieri, con gli euroburocrati a gestire la vita delle persone e soprattutto l'andamento anche economico di un paese. Andiamo avanti. Il governo tedesco, a proposito di Germania, vuole lasciare più margine d'azione alla Grecia nel caso in cui si arrivasse a un terzo pacchetto di aiuti, perché comunque bisogna continuare a aiutare la Grecia. Invece di dare ad Atene 100 piccole prescrizioni, si potrebbero indicare 20 grandi obiettivi. Questa è una fonte del governo al Die Welt. Vogliamo uscire da questa impostazione che corrisponde all'approccio di cui ha fatto esperienza il Fondo Monetario Internazionale nei paesi in via di sviluppo, facendo dei grandissimi casini e anche disastri. Beh, benvenuti nel club, lo dico se fosse confermato, benvenuti nel club di chi pensa che l'olio di ricino e il bastone non bastino, diciamo, a far risollevare un paese, no? Un po' tardi, i tedeschi ci arrivano sempre un po' tardi, cioè, nel senso, quando si impuntano su una cosa devi per forza vedere la sconfitta dappertutto per capire che hai perso la guerra, Allora, intanto in Spagna c'è il premier Rajoy che dice che la Spagna è passata dall'orlo dell'abisso ad essere la nuova Germania. Io non so se Rajoy, piano con le frasi. Comunque è vero che la Spagna ha fatto riforme che noi non abbiamo fatto, è vero che era messo peggio di noi, invece ancora, seppur di pochi punti, lo spread spagnolo è tornato a essere più basso di quello italiano. Oggi Rajoy ha annunciato, lo dico molto chiaramente così capiamo anche l'indirizzo per Matteo Renzi, ha annunciato il taglio dell'IRPEF in Spagna per i redditi bassi, e cioè l'esenzione dal pagamento dell'IRPEF, non pagheranno tasse tutti i redditi, tutti i contribuenti che guadagnano meno di 12.000 euro annui a partire dal 2015. 12 milioni di lavoratori dipendenti. No, è interessante questo, perché è ovvio che sui lavoratori dipendenti vai sul sicuro, perché lo vedi in busta paga. Anche da noi bisognerebbe arrivare a un'operazione importante sulla tassa sul lavoro. Faccio solo una precisazione: con l'evasione fiscale che abbiamo in questo paese di alcune categorie professionali, io partirei dai lavoratori dipendenti, del settore privato in primo luogo, ci mancherebbe. Però mi dispiace, noi non posso continuare, lo dico con massimo rispetto, abbiamo detto più volte che l'atteggiamento dell'Agenzia delle Entrate e di Equitalia deve essere di andare a cercare la grande evasione. Però andate a vedere le stime delle dichiarazioni dei redditi di gioiellieri, proprietari di alberghi, proprietari di ristoranti, dentisti, medici e quant'altro. Allora lì andremo a fare un regalo. Poi abbiamo visto anche cosa succede quando bisogna fare l'applicazione per avere sconti e borse di studio all'università, le false dichiarazioni dei redditi dei figli che, capito, non hanno una lira col papà, con la Ferrari. Per cui iniziamo dai lavoratori dipendenti, dove almeno siamo sicuri che quello che viene dichiarato in busta paga è esattamente quello che guadagnano. Dall'Europa è arrivato comunque un plauso ben augurante nei confronti del neo ministro dell'economia Piercarlo Padoan, o Padoan, insomma, dipende se vogliamo pronunciarlo alla veneta o no, perché lo ha detto lo stesso commissario agli affari economici Olli Rehn. Ha detto: attenzione, siamo fiduciosi che l'Italia rispetterà gli impegni presi e dovrà abbattere il debito con uno sforzo maggiore. Rehn: va bene, lo abbattiamo un po' sto debito, ma il problema dell'Italia è far ripartire i consumi. Ma la vuole capire anche lei, che ogni tanto mi sembra Forrest Gump. Detto questo, Olli Rehn dice: Padoan sa cosa fare sulla crescita e le riforme, ha scritto molti rapporti proprio su questi temi. However, for Italy to begin to bring down its very high public debt in line with the debt reduction rule of the Stability and Growth Pact. Per l'Italia la priorità rimane l'abbattimento del debito pubblico fino ai livelli previsti dalle regole del patto di stabilità e crescita. Da questo punto di vista non ci sono grandi novità, vale infatti quanto detto in passato, e cioè che il Paese deve fare sforzi più consistenti per ridurre l'elevato debito pubblico. Posso solo dire che l'Italia manterrà un forte impegno di fronte ai trattati e agli impegni europei. Sono ansioso di lavorare a stretto contatto con il nuovo governo per sostenerlo nelle riforme economiche e per aiutarlo ad abbattere la disoccupazione e liberare il potenziale economico del Paese. I think it's also worth noting that Piercarlo Padoan, the new finance minister of Italy. Penso inoltre che il nuovo ministro dell'economia, Piercarlo Padoan, autore di molti rapporti dell'OCSE sulla crescita e sulle riforme strutturali, sappia certamente cosa fare per rilanciare la crescita dell'economia italiana. In the Italian economy to revive economic growth. Allora, visto che Rehn ha letto i rapporti di Padoan, ricorderà che Padoan era molto critico sull'impostazione che ha preso l'Unione Europea per la crisi dei paesi del sud, dell'area euro-sud, l'attacco all'euro, e ha anche sostenuto ai nostri microfoni che bisognava un po' smetterla con questa area euro solo del rigore e iniziare a fare politica della crescita. Vediamo se è arrivato al comando, saprà tradurre questi rapporti, queste analisi in atti concreti. Volete sapere perché dico ridurre il cuneo fiscale a partire dal settore privato? Perché è stato quello più massacrato dalla crisi, perché siamo nell'industria meccanica un 30% in meno di produzione industriale, vuol dire che è come se un'azienda su tre avesse chiuso. Partiamo da lì, dalle buste paga dei lavoratori dipendenti, poi andiamo anche al pubblico se volete, ma non facciamo paragoni impropri. Il settore pubblico non è stato massacrato da nessuna crisi, magari avessimo visto non una riduzione solo dei dipendenti, ma una miglior dislocazione dei dipendenti e anche qualche dirigente in meno, qualche stipendio in meno. La disoccupazione si è scaricata quasi tutta sul settore privato, è inutile continuare a raccontare balle. Io non ho visto il blocco del turnover, ma non ho visto licenziamenti in massa nel settore pubblico. Per fortuna, diciamo anche per fortuna, però il 12,6% di disoccupazione se l'è beccato tutto il settore privato di questo paese. Oh. Dino Pesole del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, poi arriverò anche altre notizie di oggi sugli scontri di autostrade, sui consumi. Però, il Sole, nel suo stile, ha detto una cosa molto semplice, che già ieri chiarivamo. È inutile stare con Renzi o contro Renzi. Vediamo quello che annuncia, che coperture ha. Vediamo di capire se poi, oltre agli annunci, ai disegni di legge, decreti legge, arriveranno anche i decreti attuativi, e ogni volta andremo a vedere l'implementazione. Perché Dino, io ricordo che anche nello scorso governo c'erano decine e decine di decreti attuativi che devono ancora essere emanati. Senza di quelli, qualunque legge è una scatola vuota. Allora, voi avete fatto il conto di quanto costerebbe il piano di rilancio annunciato ieri al Senato e riconfermato oggi alla Camera, andando a vedere anche le ipotesi di copertura. Dino. Sì, abbiamo fatto il conto e sostanzialmente si tratta ovviamente di buoni propositi, di annunci, come dicevi, vanno ora verificati alla prova dei fatti. Allora, il taglio del cuneo fiscale si è chiarito ieri sera con una nota di Palazzo Chigi che Renzi sta pensando a un taglio di 10 miliardi, che sostanzialmente equivale a una riduzione di 5 punti del cuneo fiscale, che va benissimo ovviamente, anzi è una delle misure che noi personalmente da anni riteniamo fondamentali e prioritarie, a patto che queste misure siano opportunamente coperte, perché se poi il beneficio della detassazione, diciamo, del prelievo fiscale e contributivo sul lavoro lo paghiamo in altri modi, non va bene. E dunque ci sono 10 miliardi che vanno recuperati anche subito, in fretta, perché questa è una misura che il governo vuole mettere in campo giustamente nelle prossime settimane. Poi Renzi ha parlato dell'assegno per chi perde il lavoro, anche questa è una misura interessante. Il problema è che dai conteggi che abbiamo fatto noi, se si decide di estenderla erga omnes, senza fissare ad esempio dei tetti o delle misure precise su quali redditi, in che misura, eccetera, può costare fino a 18 miliardi, e qui stiamo alla seconda, al secondo elemento. E poi c'è sicuramente la sacrosanta idea di voler sbloccare tutti i debiti pregressi dell'amministrazione, tutto lo stock. Il governo Letta ne ha liberati circa 22-23. E l'idea è quella che comunque anche in quest'anno, secondo il piano di Letta, ne dovrebbero essere sbloccati altrettanti, ne resterebbero almeno altri 50. Allora, qui come si fa? Perché se si decide... No, allora, aspetta, io ho fatto un calcolo, diciamo che se anche il cuneo fiscale in busta paga, devo dare una risposta brevissima a alcuni ascoltatori, perché si sono arrabbiati sia i dipendenti pubblici che le partite IVA. Allora, io ho detto solo e semplicemente che i licenziamenti e la disoccupazione si è scaricata sul settore privato, vale anche per le partite IVA, sappiamo quante professioni ormai vivono con quanti studi vivono con tra virgolette finte partite IVA, che sono lavoratori dipendenti trasformati in partite IVA, e quindi siamo d'accordo. Sul settore pubblico io non ho detto che si navighi nell'oro, ho detto semplicemente che lì licenziamenti, cioè non hanno chiuso dipartimenti, province, comuni. È verissimo che gli stipendi sono bloccati in alcuni casi da 5 anni e non ci sono questi aumenti salariali. Infatti io ho detto che, a mio avviso, nel settore pubblico andrebbero meglio distribuite le risorse. Anche il pubblico impiego deve accettare la mobilità come avviene nel privato, per cui se c'è bisogno in un'area e in una città ti sposti come avviene nel privato, e se non vuoi spostarti cambi lavoro. Mi dispiace, ma non è pensabile che nell'amministrazione pubblica uno voglia lavorare vicino a casa. Nel settore privato non succede così. Se la tua azienda ti dice guarda, abbiamo bisogno di te lì, vuoi andare bene, non ci vuoi andare, mi dispiace, risolviamo il rapporto in un altro modo. E ho detto che andrebbero eliminati un po' di dirigenti e soprattutto un po' di stipendi di certi dirigenti. Quindi attenzione, anche detto questo, io resto l'idea che si debba partire in primo luogo, visto che sono 10 miliardi, dal settore privato, dai dipendenti del settore privato. Però Dino, sono 10 miliardi di cuneo fiscale nella versione minima del 10%. Poi 40 miliardi per smaltire i debiti della pubblica amministrazione. Vabbè, quello potresti farlo anche non tutto nel 2014, insomma. E poi l'edilizia scolastica sui 7 miliardi, l'assegno universale sui 18. Insomma, anche dicendo che lui voglia partire con l'edilizia scolastica, che permetterebbe di far ripartire anche un po' le opere dell'edilizia, quindi avrebbe un effetto sul PIL. Il cuneo fiscale, siamo a 17, e una parte, diciamo 50% di quello che manca, e siamo altri 40 miliardi, 20 miliardi che però non vengono calcolati nel deficit. Insomma, qui servono buoni sui 25-30 miliardi per partire. Direi proprio di sì. Allora, poiché ovviamente è del tutto evidente che non è che solo per un cambio di governo improvvisamente compaiono risorse che fino a due settimane fa non c'erano, se fosse così saremmo tutti felici, cambieremmo governo ogni giorno, ma la situazione è esattamente quella che conosciamo, peraltro con i vincoli europei e tutto il resto che ci siamo detti molte volte. Allora, il punto di sospensione che noi stessi anche oggi sul giornale abbiamo posto è esattamente questo: va benissimo tutto, ma valutiamo il governo Renzi passo dopo passo. Se il governo Renzi e il ministro Padoan saranno in grado di proporre nelle prossime settimane un piano così ambizioso, dicendo esattamente dove vanno a recuperare le risorse, e ci sono i margini per farlo, e allora saremo tutti ben contenti. È ovvio che la misura e il collegamento più stretto che si fa, non solo a livello diciamo accademico, ma tutti di buon senso, è che se si riducono le tasse, il finanziamento per ridurre le tasse va trovato riducendo la spesa corrente, non c'è altra strada, allora, perché non è ipotizzabile altro. Allora, voi avete calcolato che gli effetti del calo dello spread saranno più o meno di 3 miliardi, perché vanno a esaurirsi. Poi abbiamo un aumento eventuale del prelievo delle rente dei titoli di Stato, però insomma da 12,5 al 20% è circa un miliardo, ma bisogna stare attenti all'effetto boomerang. E la spending review 5-6 miliardi. A me i conti non tornano, però scusami, perché in questo modo arrivo massimo a 10 miliardi per quest'anno, e gli altri 20? Esatto, e infatti per quello che noi stessi abbiamo detto in vari articoli oggi, le proposte ci sono, le coperture mancano. Forse si riesce stringendo appunto al massimo e facendo sì che il lavoro del commissario straordinario alla spesa pubblica Cottarelli produca già in quest'anno 4-5 miliardi, sarebbe una, insomma, una ipotesi molto ottimistica, appunto rimane ben poco. Quindi tutto il resto è o si decide di spalmarlo nel corso dei prossimi mesi, oppure viceversa vanno trovate misure di copertura immediate, e francamente non mi vengono in mente molte altre ipotesi se non quelle di mettere mano al prelievo fiscale, che sarebbe una follia, a meno che non si decida di aprire la partita, ad esempio, che era stata ipotizzata durante il governo Monti, poi lì è rimasta, di andare a disboscare tutto l'universo degli incentivi alle imprese. Questo potrebbe essere un aspetto, che non si decida di intervenire. Sì, anche perché gli incentivi alle imprese vanno alle imprese del settore pubblico nella stragrande maggioranza dei casi. Devo dire che i 30 miliardi di incentivi, Confindustria ha detto più volte che è disponibile a rinunciare a 28, basta che venga ridotto il cuneo fiscale sulle imprese. Per cui, insomma, però lì bisogna fare una scelta di carattere politico molto forte, attenzione, perché sono imprese partecipate dallo Stato. È la scelta di carattere politico, siamo di nuovo al punto. In presenza di un governo politico, però. Questo è speriamo che sia la volta buona. Dino, grazie per questa ondata di ottimismo che hai apportato al programma, visto che c'era chi diceva che eravamo troppo realistici, troppo scettici, noi restiamo tali. Di venditori di saponette ne abbiamo già avuti abbastanza, dai, in questo paese, di gente che diceva che tutto andava bene, madama la marchesa. Comunque, 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Adesso ci fermiamo, la borsa ha chiuso invariata. Come invariata è Parigi e Francoforte, Londra ha perso 0,5 percentuale. Ci risentiamo dopo il meteo e la pubblicità. Focus Economia. Yeah, 7:41 minuti, riprende Focus Economia. Allora, un po' di risposte soprattutto al mondo del pubblico impiego. Allora, sappiamo benissimo che gli stipendi del pubblico impiego siano bassi, mi ha scritto tra gli altri un impiegato della provincia di Treviso del Ministero, dopo 30 anni di servizio, 1.350 euro netti al mese in busta paga per 13 mensilità. Lo sappiamo tutti e abbiamo detto più volte che due miti da sfatare in questo paese sono che ci siano troppi dipendenti pubblici, il rapporto è assolutamente in linea con il resto d'Europa, e che costino troppo loro. Costano tanto i dirigenti, che sono tanti anche rispetto, sono quasi quattro volte la media nel settore privato, il rapporto dirigenti-dipendenti, e soprattutto costano tanto gli acquisti di beni intermedi, 40 miliardi di euro all'anno, dove dentro entrano i centri di costo che non si fanno, ognuno che paga le attrezzature come cavolo vuole, le mazzette, le consulenze, le tangenti e quant'altro. Questo è il problema del pubblico impiego. Ho solo detto che la mobilità del pubblico impiego andrebbe anche per i sindacati fatta passare veramente, e cioè è inutile avere duplicazioni, uffici vuoti da una parte e i camminatori dall'altra, piuttosto che gli assenteisti. Andiamo alla mobilità del pubblico impiego. Ma che il pubblico impiego abbia stipendi bassi, lo diciamo da anni, più bassi della media europea, non è lì, non è nel dipendente del pubblico impiego il problema. Comunque, meno male che c'è chi vuole che pubblichiamo il CD delle basi musicali di Focus Economia. Sì, magari lo faremo per l'estate. Fatemi sapere se vi interessa, anche su Facebook. La borsa invariata: Milano meno 0,10%, Parigi meno 0,10%, Francoforte meno 0,33%, Londra, l'America più 0,18%. Ormai stiamo toccando il fondo qui, ma è per tirarsi un po' su. Livia Zancaner, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera. Allora, tu lo vorresti la compilation delle basi musicali di Focus Economia per l'estate? Sì, certo, assolutamente. Ah, sì, sì, certo, assolutamente sì. Bella, bella, bella aziendalista, mi piace così. Pop Milano più 6,93%, Banco Popolare più 2,90%, Mediobanca più 2%, Pirelli più 1,20%, World Duty Free più 1%, Popolare Emilia Romagna più 0,90%, Luxottica più 0,80%, come Steam Microelectronics. Chi va male oggi invece: Prismian meno 3,30%, CNH Industrial meno 1,60%, Snam meno 1%, Tods meno 1%, Tenaris meno 0,90%, come Finmeccanica. Del lusso parleremo tra un attimo, per i due motivi che dicevo: Crizia, che va alla cinese Shenzhen Maris Frog Fashion, e il fatto che i cinesi, stando alla notizia diffusa oggi, l'anno scorso hanno comprato il 50% di tutti i beni di lusso al mondo. Però noi restiamo sui titoli italiani. La Popolare di Milano si è risvegliata di brutto sull'ipotesi di cosa? Ci sono ipotesi di aggregazione da parte degli operatori nel settore delle banche popolari, e secondo gli operatori, appunto, BPM sarebbe il candidato ideale del comparto, e il consolidamento tra le popolari potrebbe anticipare l'esito degli stress test che è previsto per novembre. Gli analisti inoltre sottolineano per la Banca Popolare di Milano una valutazione a sconto del 10% rispetto ai concorrenti, un appeal speculativo che deriva dalla revisione della qualità degli attivi da parte della Banca Centrale Europea. Ancora sale anche il Banco Popolare più 2,90%, qui invece sono i conti a interessare. Sì, allora venerdì saranno pubblicati i conti e il nuovo piano industriale. Per quanto riguarda i conti, per il 2013 è attesa una perdita netta a causa degli elevati accantonamenti, ma questo appunto non è una novità. Sono positive invece le stime sul nuovo piano industriale, con gli esperti che si aspettano proprio target aggressivi per il periodo 2016-2018, con un utile oltre 580 milioni tra 4 anni. Ancora restiamo in tema di banche: Mediobanca più 2%, Monte dei Paschi ieri era 0,00, e qui non parliamo delle nuovi sviluppi nella vicenda, nelle indagini, nella banda del 5%, ma oggi ha fatto 0,44%. In realtà I movimenti ci sono stati? Ci sono novità sull'azionariato? Sì, diciamo che il mercato si aspetta delle novità sui riassetti. Entro la fine di marzo si aspetta la cessione della quota detenuta dalla Fondazione Monte dei Paschi, che ha ceduto sul mercato il 2% nel mese di gennaio. Ci sono anche degli analisti che migliorano il giudizio sulle azioni proprio in vista di futuri movimenti nell'azionariato. Ancora tra i titoli invece, giù Prysmian, l'ex Pirelli Cavi, meno 3,30%, qui i conti sono usciti invece, e ho visto deboli anche le generali, anche se poi hanno fatto un meno 0,36%, Prysmian e le generali. Sì, allora Prysmian è arrivata a perdere oltre il 5% dopo la pubblicazione dei conti per il 2013, che in realtà hanno mostrato risultati e un dividendo proposto sostanzialmente in linea alle attese. L'utile infatti si è attestato a 268 milioni di euro, che si confronta con i 246 milioni attesi, quindi del consensus degli analisti. Anche il dividendo a 0,42 euro per azione è in linea allo scorso anno, in linea alle attese. Vi sono state delle indicazioni sul 2014, nel senso che Prysmian spiega che l'effetto negativo derivante dai cambi potrebbe durare anche quest'anno e quindi penalizzare ancora il margine operativo lordo. Per quanto riguarda generale, la notizia è appunto dell'avviso di garanzia per Giovanni Peressinotto e Raffaele Agrusti, che sono rispettivamente l'ex amministratore delegato e l'ex direttore generale del gruppo assicurativo, e la causa sarebbe ostacolo all'autorità di vigilanza. Resta con noi Livia, dopo il traffico chiudiamo con Tenaris e anche Moncler, che insomma risente tra le altre cose di un inverno mite. 349-238-6666 per gli sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Focus Economia. Allora, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, Livia Zancaner, vorrei chiudere, a parte che gli ascoltatori vorrebbero nella compilation anche la tua voce, vabbè, i tuoi sospiri, ma andiamo su cose serie, magari anche queste lo sono. Dicevamo fuori dal listino, Moncler, e Moncler oggi ha preso una bella sberla, meno 11%, ma è solo colpa dell'inverno mite? No, non solo dell'inverno mite, nel senso che i conti sono andati bene, i ricavi sono cresciuti del 19% e l'utile del 12%. Alcuni operatori sottolineano ancora che l'azione è cara a questi multipli ed altri spiegano che probabilmente a penalizzare le azioni è la prospettiva che a metà marzo i fondi azionisti potranno iniziare a vendere le azioni in portafoglio, e questo probabilmente può iniziare a penalizzare il titolo in vista appunto di questa, della scadenza di metà marzo. Ancora, dicevamo, oggi tra i migliori in assoluto, Olidata più 21,30, Grandi Viaggi più 13%, Pop Milano più 6,90%, devo dire che c'è anche il Sole 24 Ore più 5,90%, anche se è di gran lunga sotto il livello della quotazione. Lo diciamo ogni volta, non c'è problema. Innovatech meno 6,31% e Seat Pagine Gialle meno 5,50%. Mi chiudi su Finmeccanica. Perché ha annunciato nuove commesse per Augusta Westland, 260 milioni di euro, però è debole oggi, eh? Sì, infatti gli operatori sono rimasti un po' sorpresi dalla performance del titolo, perché appunto la notizia delle due commesse è positiva. Sottolineano che si tratti di realizzi che però, guardando il grafico, sono iniziati già da qualche seduta, e quindi diciamo che appunto potrebbero essere delle vendite dopo i guadagni realizzati dall'inizio del mese, che potrebbero aver penalizzato il titolo. Grazie Livia Zancaner, in attesa di averti nel nostro CD. Noi restiamo sul tema di moda, ma soprattutto di un'altra azienda, anche qui senza fare panico, di un altro marchio della moda che va dall'Italia all'estero, dopo Poltrona Frau, dopo Bulgari, Pucci, Fendi, Loro Piana, Bottega Veneta, Sergio Rossi, Pomellato, Gianfranco Ferré. Valentino, adesso, si è detto così, in effetti è veramente un bollettino di guerra, ma e adesso è stata la volta di Crizia. 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. C'è Saverio che continua a scrivere che il fondo l'ho toccato da un pezzo, che sto raggiungendo livelli sempre più bassi, che sto scavando verso il basso. A me dispiace che la sua radio si sia bloccata sulle frequenze di Radio 24 e non riesca a cambiare, sia obbligato a ascoltare tutti i giorni questo programma. Crizia. Allora, se l'è comprata la cinese Shenzhen Maris Frolg Fashion, che è un'azienda importante, dunque il prezzo non è ancora disponibile, dovrebbe variare tra i 25 milioni e 35 milioni di euro. La voce che avete appena sentito è quella di Giulia Crivelli del Sole 24 Ore, per cui segue la moda. Buonasera Giulia. Buonasera Sebastiano, buonasera agli ascoltatori. Allora, questi cinesi che cosa fanno? Immagino che si occupino del prêt-à-porter, prego. Sono un gruppo, loro hanno 400 negozi, sono soprattutto attivi nel retail. È un'operazione, la prima operazione dell'anno, se nella moda, se escludiamo Poltrona Frau che tu hai citato. È un'operazione piccola confrontata ad altre, perché appunto è un marchio che nel 2012, ultimo bilancio disponibile, aveva ricavi per circa 18 milioni di euro, probabilmente l'anno scorso sono scesi sotto i 10, pagata appunto intorno ai 25. Se pensate che invece Pomellato, 160 milioni di euro di ricavi, è stata pagata tra i 300 e i 350, e la loro piana record assoluto 2 miliardi di euro per un'azienda che ne fa 600, quasi 700. Quindi è molto diverso, un'operazione molto diversa. Questo è un marchio, lo dico chiaramente, perché con tutto il rispetto è un marchio decotto, che è passato dai fasti degli anni 90, quando probabilmente era arrivato a 300-400 milioni di ricavi, ai 10 di oggi. Però forse è il momento giusto di comprare, forse è adesso, spendendo poco, che questo marchio può essere comprato e valorizzato. Secondo me la cosa giusta l'ha detta Ferruccio Ferragamo di recente, non è tanto che la proprietà diventa straniera, il brutto è quando la produzione viene delocalizzata. Qui c'è già una dichiarazione di intenti, resterà tutto in Italia. E tu resta con noi, perché della delocalizzazione produttiva parleremo dopo di te, perché in Francia è passata una legge, la legge Florange, dal polo siderurgico che stava per essere chiuso dagli, per essere ceduto agli indiani della Mittal, e che colpisce gli industriali che vogliono portare all'estero fabbriche con almeno 1000 dipendenti, molto contestata dalla Confindustria francese. In effetti il rischio di dirigismo c'è, ma ne parliamo dopo. 349-238-6666 per i vostri sms, e poi Focus Economia su Facebook. Focus Economia. Alle 18 e 8 minuti riprende Focus Economia con voi Sebastiano Barisoni. Dunque, come già ricordava anche il nostro GR, il dato di oggi su quanto bene di lusso è stato venduto ai cinesi è impressionante, e cioè l'anno scorso il 47% di tutti i beni di lusso al mondo se lo sono comprati i cinesi, piaccia o non piaccia, e il 60% di questi acquisti cinesi sono avvenuti fuori dalla Cina. New York, Parigi, Roma. Lo dico perché quando poi ragioniamo sul portare i turisti qui, significa anche farli atterrare prima a Roma e a Milano, e non farli atterrare ogni volta a Parigi o a Francoforte, che arrivano in Italia con le tasche vuote e hanno comprato i marchi italiani in negozi tedeschi e francesi, quindi i soldi e l'IVA resta in quei paesi, a noi restano, diciamo, i margini, ma poco altro. Però vorrei concludere con Giulia Crivelli. Siamo partiti da Crizia, che va in mano cinese, e tu ricordavi il marchio era obiettivamente spompato. E vabbè, però il nostro mondo del lusso si è posizionato bene in questi mercati, perché sai, poi è tutto relativo. Molto bene, e la cosa veramente interessante che emerge da una ricerca di Boston Consulting Group presentata qualche settimana fa è che per i cinesi lusso vuol dire soprattutto made in Italy, cioè nel momento in cui loro vedono made in Italy, per loro quello è lusso, o in certa parte anche made in France. Quindi per questo dicevamo importante non delocalizzare, importantissimo avere i negozi là, perché loro devono vedere l'insegna Crizia, la devono vedere là e la devono vedere qua, e poi però preservare questo famoso made in Italy che loro ormai sanno riconoscere, perché sono consumatori molto evoluti, perché per loro è quello il valore aggiunto. Allora acquistano dovunque, che siano a casa loro, qui perché gli costa meno, ovunque. Sì, e devo dire la verità, però dimmi se dico l'ennesima castroneria, che in tutte le operazioni che citavo prima di acquisizione di marchi del lusso italiani passati in mano straniera, Poltrona Frau Bulgari, Pucci, Loro Piana, Bottega Veneta, Sergio Rossi, Pomellato, Ferré, Valentino, poche volte hanno delocalizzato, cioè la produzione è rimasta in Italia. Assolutamente, anzi l'hanno potenziata. Vuitton ha raddoppiato la metratura della fabbrica di Fiesso d'Artico di scarpe e produce lì tutte le scarpe per tutto il marchio e anche per altri marchi. Berluti, altro marchio acquistato da LVMH, ha fatto la stessa cosa. Cioè per loro è poter mettere quel made in Italy, a volte lo mettono persino i marchi francesi, mettono made in Italy sulla loro pelletteria, perché diventa un valore aggiunto paradossalmente, se vogliamo, anche per i francesi quanto gli deve costare. Però questo lo dico anche per rispondere a certi cortocircuiti mentali, no, bisogna tornare alla diretta così riusciamo a esportare. Esporti quando sei sulla fascia alta, tanto non riusciremo mai a competere con la Cina, con il Vietnam e con l'Indonesia sui prezzi della manodopera, ma per favore, il problema è spostarsi sulle fasce alte di produzione dove c'è il valore aggiunto, mantenere questo valore aggiunto, aiutare l'immagine di questo paese anche commercialmente parlando in quei mercati e portare qui i turisti all'Italia and Company, per favore, no? E chiudere l'Enit, non c'entra nulla, ma è da sempre un mio cavallo di battaglia, così come è fatto non serve a nulla. Grazie a Giulia Crivelli. Visto che citavi i francesi, noi ci spostiamo sulla Francia, restando però in tema, perché è passata una legge che riguarda proprio le delocalizzazioni. 349-238-6666 per gli sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Allora, attenzione, questa legge che si chiama legge Florange va vista bene, perché è chiaro che una legge che impedisca a un imprenditore di andare a produrre all'estero sarebbe una legge molto pericolosa, lo dico prima di venire sommerso dalle critiche, per due motivi. Intanto perché un'impresa privata ha anche il diritto di andare a produrre dove ritiene più conveniente. In secondo luogo perché la concorrenza fa bene, se iniziamo a creare l'autarchia, a proteggere il settore, la Francia esporta molto meno dell'Italia, perché ha anche molte aziende protette, ha uno Stato che è fin troppo interventista, da noi è assente, lì è fin troppo presente. Però Marco Mussanè, corrispondente del Sole 24 Ore da Parigi, buonasera. Buonasera a voi. Allora, la legge contestata dalla Confindustria francese cosa prevede per gli industriali e per le fabbriche che hanno almeno 1000 dipendenti? Ecco, la legge prevede appunto per i gruppi con oltre 1000 dipendenti che in caso di chiusura, di decisione di chiusura di un impianto, siano obbligati a comunicarlo alle organizzazioni sindacali con almeno 3 mesi di anticipo e utilizzare questi 3 mesi per cercare attivamente un acquirente. Qualora la magistratura a cui eventualmente dovesse rivolgersi il sindacato ritenesse che questo attivamente non c'è stato e che quindi la società non si è data sufficientemente da fare nel cercare un acquirente, l'azienda è passibile di una multa che può arrivare fino a 20 volte il salario minimo garantito per ogni posto di lavoro perso, quindi sostanzialmente circa 30.000 euro per ogni dipendente che perde il posto, e l'eventuale rimborso degli aiuti pubblici ricevuti nei 2 anni precedenti la chiusura. Mi permetto solo di aggiungere che in realtà non è una legge antidelocalizzazione. Infatti. Io mi rendo conto che forse alcuni titoli dei giornali di oggi hanno tratto in danno i lettori, ma si tratta in realtà di una legge finalizzata a ostacolare il più possibile la chiusura di siti industriali che sono, diciamo, potenzialmente redditizi. Ecco perché dicevo va letta bene, perché in realtà è una legge che sostanzialmente, come tu hai spiegato, prevede l'obbligo di cercare un acquirente prima di chiudere un impianto, nel senso che tu non puoi semplicemente chiudere l'impianto e aprire un altro all'estero. Ecco, devi venderlo, e se non riesci a trovare un acquirente veramente, a quel punto si capisce, però se non lo cerchi nemmeno vieni anche sanzionato. Mi sembra da questo punto di vista una cosa molto diversa appunto dalla semplice legge anti delocalizzazione. Ti dice: prima devi cercare un acquirente se vuoi chiudere questo impianto per aprire un altro all'estero, poi se non l'hai trovato, veramente non l'hai trovato, puoi farlo, ho capito bene? Sì, hai capito bene. Questo non toglie che la legge sia una legge oggettivamente poco business friendly, cioè nel senso che come è il caso tipico della siderurgia, visto che il nome della legge prende il nome appunto dall'impianto siderurgico di ArcelorMittal di Florange, appunto in Mosella, dove 2 anni fa il gruppo decide di chiudere 2 linee di produzione e cioè, diciamo, l'area a caldo, e Hollande in campagna elettorale promise appunto questa legge. È chiaro che spesso in alcuni settori industriali, appunto tipico della siderurgia, ma pensiamo anche all'auto, c'è un problema oggettivo di sovrapproduzione. Quindi un gruppo chiude uno stabilimento perché la sua sopravvivenza è antieconomica e paradossalmente potrebbe un domani creare problemi alla sopravvivenza stessa del gruppo. Ecco, una legge che in qualche modo non direi obbliga, perché le sanzioni francamente non sono molto pesanti, ma diciamo invita l'imprenditore paradossalmente a cercare un acquirente che normalmente è un concorrente su una linea di produzione che chiude perché sia in una situazione di sovrapproduzione, è comunque una legge, come dire, sbagliata. Ecco. Sì, è chiaro anche questo. Comunque era importante precisare, perché come tu ricordavi, i titoli oggi hanno legge anti delocalizzazione, che sarebbe obiettivamente un'ingerenza che non si conosce nel mondo occidentale. Altra cosa è dire: devi dimostrarmi che prima hai esperito tutte le possibilità per vedere se c'era un acquirente quantomeno per questa fabbrica che tu vuoi chiudere, perché non la ritieni più profittevole e confacente al tuo business. È vero che non è una legge business friendly, nel senso che poi anche gli investitori esteri in Francia a questo punto probabilmente ci penseranno 2 volte, però è più articolata di come non era sembrata una prima e di come non fosse sembrata una prima lettura. Grazie a Marco Mussanè del Sole 24 Ore in collegamento con noi da Parigi. Adesso il traffico e poi insomma i dati diffusi oggi. Allora, so che non voglio darmi il gufo da solo, però il titolo potrebbe essere: l'Europa riparte, l'Italia un po' meno. 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Strade in diretta. Buonasera, traffico intenso con code in uscita da tutte le grandi città. A Roma code e rallentamenti anche sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra la Roma Fiumicino e la via Appia come conseguenza di un incidente. Disagi anche in città sulla via Nomentana per un incidente avvenuto nei pressi di Viale Regina Margherita. Sull'autosole code di 3 km per lavori verso Bologna tra Calenzano e Barberino di Mugello. Altre code si incontrano sul tratto campano della 1 per un incidente tra il ramo di Capodichino e Napoli centro direzionale verso Napoli. Code sulla 12 Genova-Livorno per lavori tra Carrara e Massa verso Livorno. Infine si segnala la chiusura per lavori della 29 Palermo-Mazzara del Vallo tra Castellammare del Golfo e Alcamo Ovest in direzione di Mazzara. È tutto, torniamo tra mezz'ora. Focus Economia. Riviste tutto il rialzo, le stime di crescita per quest'anno sull'area euro e anche sull'anno prossimo, tranne che per un paese. Più 1,2% l'area euro quest'anno, più 1,8% l'anno prossimo. La Germania più 1,8% quest'anno e più 2% l'anno prossimo, la Francia più 1% quest'anno e più 1,7% l'anno prossimo, perfino la Spagna. La Spagna che ha fatto le riforme e oggi ha varato un piano di il taglio totale dell'IRPEF per i lavoratori dipendenti che guadagnino meno di 12.000 euro l'anno. Dicevo, rivisto al rialzo il PIL anche in Spagna, più 1% quest'anno, più 1,5% l'anno prossimo. In Italia invece dallo 0,7 quest'anno, dice la Commissione Europea, cresceremo solo dello 0,6%. Devo dire che l'avevamo detto e l'avevano detto in tanti, tranne che il governo Letta. Allora, professor Gustavo Piga, docente di politica economica all'Università Tor Vergata di Roma, buonasera. Buonasera, come sta? Bene, grazie. Lei è sempre l'unico che me lo chiede, sempre. La gamba va un po' meglio così. Sono contento. Grazie. Senta, mi deve spiegare una cosa. Lei è un grande esperto di numeri, di macroeconomia. Perché secondo lei il governo Letta e il ministro Saccomanni, fino all'ultimo minuto, nonostante anche le contestazioni del Centro Studi Confindustria, hanno tenuto botta dicendo che quest'anno saremmo cresciuti dell'1%, quando tutti i dati sull'ultimo trimestre dell'anno segnalavano una fine 2013 in frenata, non in ripresa? Non è una differenza da poco, perché l'1% del PIL sono circa 18 miliardi, lo 0,6% del PIL sono circa 10 miliardi, un po' di più. Allora, voglio dire, ballano 7-8 miliardi, è il 40% in meno. Perché secondo lei fino alla fine Saccomanni non ha voluto ammettere che la crescita era più bassa di quanto stimato nella manovra finanziaria del governo? Non ho idea, devo dirle però una cosa. Da un lato c'è una parte che io capisco del comportamento di qualsiasi governo che tende a sovrastimare la crescita, perché se c'è un governo che comincia a annunciare a tutti che le cose vanno male, certo poi è ovvio che le aspettative degli operatori per quanto riguarda la domanda privata non salgono e quindi contribuisce al pessimismo globale. Certo è che poi la gente si abitua e quindi non è una grande sorpresa questa. Credo che ci sia anche un'altra componente. Se tu devi prendere atto che l'economia va peggio, devi anche prendere atto, come sempre, che i conti pubblici vanno peggio. E la mia impressione è che questo governo che è appena passato, che ci siamo lasciati alle spalle, aveva quasi paura di parlare con la Commissione europea quando i conti pubblici peggioravano. Io probabilmente immagino che la Commissione europea comunque non gli avrebbe chiesto niente, perché era un peggioramento dovuto al ciclo, ma è tale la paura di andare a parlare, a negoziare, che forse far vedere dei deficit, un deficit che naturalmente saliva perché l'economia andava peggio, li terrorizzava perché avevano paura che magari gli chiedevano altre manovre. Non lo so, spero solo che questo comportamento col nuovo governo cessi, e forse ne parleremo. Sì, io non voglio insistere, però stiamo parlando di 10 giorni fa. Possiamo risentire il mitico ex ministro, a questo punto Saccomanni, dicendo che la crescita dell'ultimo semestre del 2013, lui dice 2003, sbagliando, ma insomma era tutta una crescita interna, perché io non ho ancora capito che cosa, diciamo, si fosse fumato, sarebbe eccessivo, ma insomma che cosa avesse visto il ministro Saccomanni per parlare, l'ex ministro Saccomanni, per parlare di una crescita economica nell'ultimo semestre del 2013. Io sono convinto che la ripresa della seconda parte del 2003 è dovuta alle misure che abbiamo preso noi. L'Italia è famosa per non prendere il treno delle riprese altrui, quindi questa qui per una volta è una ripresa, come dire, totalmente, diciamo, homegrown, cioè prodotta in casa. Saccomanni, home growth, prodotta in casa, visto che cosa si è fumato, uno pensa a qualcos'altro. Ma come si fa a dire, non so cosa produca in casa, diciamo, però, e faccia crescere in casa? Però dico, come si fa a dire che la crescita della metà del 2013, non lo so. Piga, questo non va a peggiorare il deficit italiano, perché è stimato ancora al 2,6% quest'anno. Nel senso che lo spread ci aiuta, pagheremo 3 miliardi, forse 4 miliardi in meno di interessi sul debito. Mi dia anche lei, visto che tutti qua danno consigli a Renzi, io non sono né scettico, lo dico a chi mi dice, lei già criticando Renzi, non sono né scettico né a favore, voglio vedere i fatti, voglio vedere il cammello. Detto guarda, questo, qui c'è un punto importante. Adesso Padoan arriva e farà una due diligence, quindi quando fa la due diligence correggerà questi tassi di crescita del prodotto interno lordo. Farà anche un'altra cosa, dovrà presentare i saldi in Europa, e questo rapporto della Commissione europea dice chiaramente che il saldo italiano aggiustato per il ciclo, cioè l'unico che conta, è in deficit di 0,9, e non commenta, non dice altro la Commissione europea, non dice dovete aggiustarlo. Sta di fatto che Saccomanni invece aveva promesso che noi nel 2015 arriveremo con questo numero, il saldo aggiustato per il ciclo, di fatto all'equilibrio zero. Allora, che facciamo adesso? Che farà Padoan? Beh, sarà molto importante capire se gli verrà la frenesia di imitare Saccomanni, vuol dire che, stando alle previsioni della Commissione europea, dovrà portare una manovra restrittiva di 1% di prodotto interno lordo. Se invece vuole mettere sul tavolo la necessità di uscire definitivamente da questa crisi, come stanno facendo tutti gli altri paesi dell'Unione europea, cioè con la domanda interna, e la domanda interna non si stimola con restrizione di domanda pubblica, beh, vedremo se questo governo confermerà che si attiene alle attuali visioni della Commissione europea e non sarà più realista del re e non farà una manovra addizionale dell'1%. Devo dire che prendo atto con piacere anche di aver sentito ieri per la prima volta Renzi, oltre a parlare di utilizzare i soldi della spending review per il cuneo fiscale, di usarli anche per qualcosa che secondo me funziona 3 volte meglio in una recessione del cuneo fiscale, che sono gli investimenti pubblici. Ha parlato solo della scuola, tra l'altro gli investimenti nell'edilizia scolastica sono importantissimi perché sono lavori che si aggiudicano alle piccole imprese, quelle che soffrono di più. Allora, beh, finalmente vedere, almeno la scuola, poi non c'è solo la scuola, c'è il territorio, c'è Pompei, ci sono le università, ci sono gli ospedali. Ecco, però avere un pragmatismo di quel tipo, giudicheremo dal DEF che uscirà, il documento di economia e finanza, perché queste sono tutte parole, ma giudicheremo da aprile 2014, ma le ripeto, sarà essenziale vedere se Padoan conferma l'obiettivo dell'equilibrio strutturale nel 2015 o se riesce a negoziare quello spazio che naturalmente sembriamo avere in questo momento. È importantissimo perché darà un segnale forte per uscire dalla recessione se lo fa, e invece se no rimarremo in questo pessimismo cosmico di domanda interna che tra l'altro ci accomuna con la Francia, perché se i dati dicono qualcosa è che non è soltanto l'Italia, ma ci sono un'altra serie di paesi che non hanno l'ottimismo al loro interno, che non vogliono investire e non vogliono consumare. Sì, professor Piga, il tutto nel giorno in cui sappiamo, ce lo dice l'Istat, che nel 2013 i consumi sono crollati, le vendite sono crollate come mai è successo nella storia di questo paese da quando misuriamo le serie statistiche, dal 1990 che non facevamo un meno 2,1% nei consumi e non venivamo da periodi di vacche grasse, bagordi, Babilonia e quant'altro, non tutti diciamo, forse qualcuno sì, ma la stragrande maggioranza no. E allora ecco perché si insiste molto sulla domanda interna. Ho capito il suo punto, lei dice vediamo se Padoan terrà fede alla linea troppo filoeuropea, a mio avviso, di Monti e Saccomanni, Monti prima e Saccomanni dopo, o se punterà sulla domanda interna. Devo dire che a me oggi è piaciuta molto la frase, vedremo se non sarà solo una frase, che ha detto Renzi, dicendo la tenuta delle scuole, la stabilità delle scuole è più importante della stabilità dei conti, ok? Che non cada una scuola è più importante che tu sfori il deficit al 3,01%. Grazie anche a Gustavo Piga. Focus Economia torna domani dalle 17 in poi. Intanto un augurio di buona serata da Sebastiano Barisoni. Radio 24, la passione si sente.